e fammi un sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un principone. Mirava le canzoni mie e mari tutto di vade bugie. Canzone belle appassionate, caro mamma mia, ma ricordate, cantate solo per dispetto, ma con la smania dentro al petto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora, dede, nessuna se innamora.